Chemondo è un'altra menestra. Qualsiasi radio Chemondo esce sempre meglio di quelle ICOM e di quelle IESO, anche qualche una delle IESO. Il 920 usciva benino lo stesso, il 27, però sono sprecate, cioè per parlare del 27 è meglio un baracchino, o un 140, che io lo definisco un baracchino a sintonia continua, capito? Però così, vabbè. Avanti Massimiliano. Grazie che rilanciamo la Lubrofetta, saluto a Quadrato. Vai Lubrofetta. Ti ho rilanciato due volte, non ha ripreso. Ah, ok, forse magari sta facendo cosa o si è allontanato. Niente, chiedo a Gianfranco, che è quello che ascolta più basso, com'è questa modulazione? Devo Gianfranco. Per me è buona, va abbastanza bene, però attenzione, io non è che ce l'ho più basso, nel senso che è perché uso sempre bassa potenza, sono con un VAC, capito? Perché in città va, ce ne avanza pure. Sì, sì, ok, vabbè, sul più basso nel senso come segnale, ecco, ti ascolto il più basso in assoluto, però magari anche la posizione, va. Va bene, l'importante è quello, ok, riprendi il dubbio. Vabbè, anche io sto scendo con 3,5 adesso, io. Non c'è bisogno di stare a fare, a pompare, a fare, una cosa è provare per vedere come va, per regolare, eccetera, un'altra cosa è uscire più bene. No, io sono con 3,5 in questo momento. Va bene, già, arrivi benissimo. Anch'io sono con 3,5 adesso. Di là tutti. Beh, 3,5. Come ho fatto? Ho girato la scrivania perché non vedevo bene il muro, adesso lo vedo bene, beh. Sì, vabbè, comunque... anche questo qua si difende, va bene anche questo qua come baracchino. Adesso mi manca solo di attaccare il cobra, e poi ho finito col giro. No, io non li voglio fare a attaccare tutto, mi sono girato la scrivania, ho lasciato acceso un po' il 140 e adesso moduliamo un po' con questo a cui una mezz'oretta e me lo vado a portare il cane, sta piovendo a dirotto, ma dimmi tu che si butta. Io sono ancora bagnato, sta mettendo quel cavo d'antenna sulla macchina. È una rottura di palle, contento, dai, sono stufo di... Già, non puoi far nulla, più il tempo brutto, neanche ho fatto due passi a piedi, sono riuscito a farmi un giretto. E vabbè, avanti Massimiliano. Bene, sta andando sto capo a sintonia continua, questo baracchino a sintonia continua. Sì, benissimo, qua, bella modulazione, bella forte, pulita, bella, bella, mi piace. Va bene, sì. No, però comunque da domani ha messo miglioramento, fino a giovedì, venerdì ha messo 3 giorni buoni, senza acqua. Speriamo, perché domani dovrei riprendere a lavorare, da voi un mese. Che cazzo ci continua a piovere tutta la notte, dove giovedì domani andando a travagliare? Piovendo un bambino di nuovo. Sì, già travaglio, io non ti preoccupare, al posto di caricare il camion ci sistemiamo quello che c'è a sistemare, capito? E noi l'altro giorno abbiamo iniziato, stava piovendo, poi, anche perché sembra così, là. Vai di lì dove sono io, a volte qua sta diluviando e lì niente, oppure viceversa. Lo so, ma comunque, vabbè, se dà miglioramento è meglio, almeno qualcosa ce la fa fare, dai. Avanti, dottor, non mi riprendi. Ecco qua, adesso sono con il cobra, come va? Sì, un po' bacino la modulazione, ma già va bene. Questo è in basso, già. Se da ancora che c'è questa modulazione, anche col Saturnecco, poi c'è camionisti lontano che stanno parlando tra di loro. Ah, li senti anche tu? Sì, beh, ce ne sento io, da poco fa che ce li ho sotto, però adesso il segnale sta andando aumentando, prima erano segnali 2 e 3, adesso sono già a Santiago 5. Guarda, adesso se va meglio la modulazione. Sì, va bene adesso. Ma sta facendo, sta innescando. Troppo forte, abbassa. Abbassa appena già, metti una via di mezzo. Guarda, bisogna abbassarla perché sennò innesca. Così la devo mettere, guarda, così, a metà. Ora, 1, 2, 3. Abbassa un altro po' Torino già, sta pescando ancora. Sì, sicuramente i radar qua si stanno avvicinando verso qua, capito? Io sto andando tutta la sera col microfono normale, o qua. Ah, vedi, l'ho fatto ma con difetto. Lascia perdere, ce lo commentiamo di nuovo. No, ma non sono camionisti, questi Altieri. Questo invece di mamma da Altieri che sta parlando con Giovanni, perché uno arriva e uno no. No, no, perché ci sono polemiche, per vedere la differenza là, da quello amplificato a questo. No, questo va bene, ma c'è che ricominci, ma non è per. Aspetta, avete parlato in due, aspetta già, cos'è qua? Ho detto che se ti ricordi bene, avevo un difetto quel microfono, l'abbiamo eliminato. Sì, eliminato, eliminato. Dimmi già. Ho detto, prova adesso se va bene come modulazione. Sì, adesso è perfetto, va bene. Perché l'avevo abbassato troppo, deve essere, c'è il compressore questo come il coso, come il magnum, capito? Va bene, no, questa modulazione va benissimo. Ok, avanti Gianfla. Sì, si sta aprendo parecchio la propagazione. Ogni tanto, ma deve essere sempre dalla parte dell'est, evidentemente qua ci stiamo prendendo pioggia, neve, piena messa, ed è la mare sta facendo il sole, perché stanno arrivando russi e greci e tutta quella roba lì. E allora abbiamo 40 zinco, ecco, e via. Infatti, questo è il microfono normale del 140 Massimiliano, come va? Buono anche questo. Sarà 10 per Gianfranco, che a lui le piace la modulazione bella paccata, no Gianfranco? Meglio dell'altra questa. No, ma andavano bene tutte e due. Questa è quando entriamo in confessionale che ti devi confessare. Quindi se ci stai 5-6 ore a confessarti e il prete diciamo non si infastidisce, ecco. Sapevo che dicevi così. Allora ti già, no, visto la macchina sta modulando col microfono, ma la ci metto anche io là. Avanti già. E allora, questo qua è l'M93 Massimiliano, quello che io avevo modificato la capsula, è colorato le parti gialle perché non mi piacevano, il coso, il PTP e il cursore, tutto quanto l'ho fatto tutto nero. Va bene già. Questo Massimiliano, quel microfono che ho usato già è come quello che hai dato a Brofetta, no? Preciso, uguale, identico, solo che Gianni lo Brofetta c'ha diversa radio, giustamente. Quello di Gianni, cioè la radio c'è bene, quello di Gianni Lubrofetta, è una bella radio. C'è bene, sì, vabbè, c'è un 3009, spinge di più sicuramente del Cobra. Va bene. Avanti Gianfranco. Ma siamo rimasti in tre. E io, mamma di tu, io, tu, Massimiliano e Gianni Doppio Rum, gli altri sono andati via. Perché in effetti non è tanto presto, sono già le 7:30. Quindi anche dovrei mangiare tra poco, se no me ne dimentico. L'orario va bene, no? No. Ah, io sì. No, io non mangio l'orario, ma ci mettiamo già sempre alle 9, perché devo portare questo benedetto cane di volta, con una rottura di palle che non ti dico. Per fortuna a casa mia queste regole dell'orario non ci sono. Io abuso di 7:30, dove devo mangiare? Allora devi dire, no. Io se mangio adesso alle 10 ho di nuovo fame. Anche noi mangiamo per mezza, 9:10, 9:15, no, io non ne ho orario a casa, ecco, cioè, no, non è che mangio alle 11 di notte, è successo anche quello, però in genere noi mangiamo per mezza, 9, dai, è un orario normale, ma mangiare alle 7:30, se mangio alle 7:30, alle 10 mi devo alzare, devo mangiare di nuovo. No, neanche io devo solo staccarmi per portare il cane, basta, se no anche noi stiamo mangiando, io abbiamo mangiato alle 9. Già stavamo messaggiando che mi hai detto di non farvi dati con la bocca piena, ma sta di nevare. Sì, adesso devo interpellare mio cugino, a vedere se gli è arrivato una coda di quel tonno, me la faccio portare, adesso è il periodo. Sì, guarda, mi ho comprato tutti i barattoli di vetro già. Abbiamo fatto da un primo piano, ma io sono al secondo, quindi sono sceso al primo, poi sono andato al terzo, al quarto, il quinto l'ho saltato perché non riconosco, da Adriano al sesto, da Robertino al settimo e dalla signora Boero al nono. Tutto rubato nel giubbino e me ne ha passato buco. Ma fra lui un giorno, io ho tutti i miei cugini e miei zii che sono pescatori, no? E lui un giorno mi ha detto, quando vieni a casa mia, tocca guribedi, capito? Quindi lì ho preso la balla al balzo, capito? E gli ho portato una coda di tonno, là, piccolina, e poi lui se l'avrà divisa. Sì, piccolina già fra, 20 kg. Non te la sei mangiata tutta? Certo, le tonno ho riempito tutto il palato, sono rimasto io una settimana mangiando tonno, a trance, l'ho fatto in barattolo sott'olio, l'ho al forno, con le patate, ero una ghieta maniera di dunno. Saranno uscite le pinne. E comunque, fai attento, perché il tonno va bene una volta ogni tanto, però è uno di quegli animali, purtroppo, che c'ha molto mercurio, quindi diventa il termometro. Infatti ti avevo sempre la febbre in quel periodo. E c'è, grazie. Va. Ma non è che lo mangi tutti i giorni, così, anche se lo mangi 2 o 3 volte alla settimana, non succede niente, lo devi saper cucinare anche, capito? E vabbè, ma comunque, non lo mangi tutti i giorni il tonno, no? Gianni, tu lo mangi il tonno? Io? Sì, io lo mangio. Lo faccio alla piastra oppure lo faccio alla pizzaiola, sono più due modi molto buoni. No, io a me invece non mi piace il bruffio, io mangio più il pesce spada. Io ho fatto così già la pizzaiola, ma poi non sapevo più come fare, l'ho fatto al forno, l'ho fatto bollito, l'ho fatto in tutte le maniere, poi ne ho fatto un paio di barattoli, bollito, sott'olio, e quello già mi piaceva un po' di più, capito? Però minchia, ma 20 mica erano una, secondo me che c'è una da 50 kg, perché a me mi ha dato la parte proprio da mezzo, tutta la coda, ci ha dato una ventina di chili già, una cosa allucinante. E da dove te l'hai messo? Ho tagliato tutto a pezzi, ho iniziato a dividere tutto il mio palato, e a me me ne è rimasto un bel pezzo, sono stato una settimana mangiando, capito? Qua non l'ho visto. Almeno l'hanno assaggiato, è anche caro Vittorio, non si dice che sia minimo e a 22-23 euro. Ma questo era fresco, riuscendo a bagno. Era ancora giangurone, questo l'hanno preso intero, ne ha tagliato la metà e l'hanno data a Massimiliano, i suoi parenti, i suoi cugini, capito? Lui quando è rientrato dal ghiera è passato a casa e me l'ha portato. Mi ha fatto piacere, perché mi ha fatto piacere, ma sono rimasto una ghida maniera di dunno e poi sono stato un bel po' senza comprarne, anche perché qualche volta io lo prendevo qualche trancia di tonno al mercato, capito? La facevo così alla pizzaiola perché è buono, ma non ho più comprato, più, capito? E adesso già ti dico, adesso devo sentire mio cugino che adesso lo vesci. Me la comando, un pezzaretto, Che cosa già? Fanno un tipo di pesca grossa a traina? No, fanno pescherecci, no, fanno tutti i tipi di pesca, fanno calamito per pesce spada, fanno tonno, fanno corallo, fanno, tranne lo strascico che non si può fare, reti fine, reti grosse, fagioli dalla ragosta, nasse per pulpi, murene, bimumba, tutto fanno. Ah, io pensavo che lo facessero a livello sportivo, sono proprio di mestiere. E cavolo, un peschereccio da 13 metri, l'altro ne ha uno da 17, l'altro mio zio ne ha uno piccolino da 10, e poi ci sono gli altri due miei cugini che hanno due gozzetti da 9 metri. Rieccomi. Lucrofea, tutto qua siamo, hai capito già? No, io pensavo che fosse a livello di sportivo, che andavano, perché ci sono quelli che vanno a traina, prendono tonni, prendono pesci spada. Quella lì è una pesca che aspetta redditizia anche, questa spada se te lo comprano, e io ho visto certi filmati al televisore, mi sa su cosa, su Divax, che dove ci sono i pescici, quelli che vanno proprio a pescare pesci spada, e in base a quanto è grasso, li fanno la prova, tipo come fanno col formaggio, con quella pesca lì, controllano la carne se ingrassa lo paga un bel. Avanti già. Eia, no vabbè, mi sono spostato, sono entrato per salutarvi, dai. Ci sentiamo prossimamente. Un saluto a Gianfranco, Gianni e Massimo, ragazzo birichino, Claudio e tutti gli altri, dai. Ci sentiamo alle prossime, buona serata a tutti. Ciao ciao, ci sentiamo. Buona serata, dai, buona continuazione. Ciao Lucrezia, ci sentiamo, dai. È stato bello riascoltarti. Mi piace, un bacio e alle prossime, vai qua. Ciao Lucrezia, ci sentiamo alle prossime, dai. Cordialità e saluti. Avanti Gianfranco, no Gianfranco è andato via, boh. Tra poco sto andando. Ciao, ma profeta, buona serata, alle prossime. Una domanda piuttosto, Claudio, pure anche agli altri, anche a Gianni, eccetera. Ma qualcuno di voi sta facendo il cashback? Sta facendo il cashback? Cashback, quella che sta, come si dice, con la promozione che sta facendo praticamente il governo sui pagamenti tramite banco, ma... No, no, no, sto facendo, forse è mia figlia, non lo so, dovevo chiedere. Sì, io la sto facendo. Una mia mamma. Io ho già raggiunto i 30 euro, cioè mi devono già restituire 30 euro, ma sono appena un mese che ho iniziato, perché dicembre non si conta. Quindi c'è 6 mesi di tempo, in 6 mesi capace che arrivi anche a 300 euro di rimborso, e quindi sono tutti soldi che mi prendo, capito? No, no, non lo so, ho sentito, ma io bancomat non è che ne uso, ma non che devo fare spese grosse, se no vado sempre con i soldi. Forse mia figlia lo fa, non lo so. Tu Massimiliano cosa hai detto? Sì, sì, anch'io lo sto facendo come Gianfranco. Io sono intorno alle 25 euro più o meno. Ma ti devi iscrivere? Devi scaricarti l'applicazione, devi andare alle poste, devi attivarlo, uscire, da lì puoi entrare nelle applicazioni dell'Inps, per fare poco che cosa. Comunque conviene scaricare l'applicazione IO, si chiama IO, è molto efficace, efficiente. Ti permette di fare anche i pagamenti, eccetera. E comunque, ripeto, se c'è il tenore, c'è gente anche al bar, no? Al bar, che ne so, da giornalaio, eccetera. La presenza e tutti quelli sono soldi che tornano indietro, perché una volta che ne hai fatto 50 ti sei assicurato, diciamo, questa forma di rimborso, ecco. Sì, anche io Gianfra, io ho scaricato l'applicazione IO, capito, e poi da lì entri a vedere tutto, puoi entrare anche per vedere il sito dell'Inps, cosa c'hai, i contributi e tutte cose, no? Sì, quella è comprensiva, lo stesso. Ma soprattutto c'è una grande soddisfazione che fai pagare le tasse anche agli altri, ecco, non le paghi solo tu. Infatti molti ti guardano male, perché se tutti lo fanno hanno finito di fare furbacchioni, capito? Sì, e oltretutto pensa tu, in tutti questi anni cosa tutto danno furato. Quindi io sono il tipo che io pago solo col banco, ma te, nel senso che le spesucce piccoline le pago tutte in contanti, ma se devo prendere qualcosa in negozio, devo pagare tutto col banco, ma te, eccetera eccetera. Io sono di contanti, a casa ne tengo molto pochi. Oh, Massimiliano, dimmi. Mi è arrivato adesso il PDF, il coso del come si chiama, della spedizione, la spedita stamattina, anzi primo pomeriggio, veramente passava il corriere a prenderla, quindi spedita oggi, quando arriva l'altra radio? Non so, dove si trova lui, centro, nord, sud Italia, dov'è? Oh, in provincia di Fermo, e te l'ha giudito. E Fermo è che cos'è? Centro Italia? Sicuramente, non lo so. Allora, per farti capire, a me me l'ha spedita venerdì ed è a Taranto. Allora, per Taranto ci mettono 4 giorni, anche se è del sud Italia, ok? invece se Nord Italia ci mettono 3 giorni, capito? Poi vabbè, adesso con questo fatto del Covid magari ci metterà un giorno in più. Adesso se lui ti ha mandato il numero tracking, tu quella lì già da domani la puoi seguire, dove va, dove non va, che ora la prendono, è tutto, capito? No, mi ha mandato il PDF, quello lì, però mi ha telefonato, mi ha detto che la radio è partita alle 6, capito? Ho lasciato il corriere a prendere alle 6, GLS. Tu fatti mandare il tracking, così lo controlli, no? Se la controllo io non è un problema. Lui dice il messaggio, lui dice mandami il codice tricky e la spedizione così te la controlli, capito? E tu giovedì sera ne mi hai mandato il PDF, ah ce l'ho ingrandito e ho visto che è partita stasera, vabbè, aspetta stasera, sono lunedì, martedì, mercoledì, io mercoledì o giovedì arriva. Oggi è martedì, così è, ma oggi cos'è? Oggi è lunedì. Giovedì ti arriva. Sì, no, oggi è lunedì. Vabbè, stiamo bene. Il prodotto l'abbiamo spedita perché era già praticamente pronta dalla settimana scorsa, solo che è stato male, poverino, ha avuto dei calcoli, quindi ha abbandonato un po' il laboratorio, l'ha spedita oggi. Va bene, avanti, doppio room, riprendi. Da, io adesso vado che devo portare giù il cane, anche non poi se piove di più non ce la faccio, va. Claudio, ci sentiamo, dai, ciao Antimiliano, ciao anche Gianfranco, statemi tutti bene, buona continuazione al PSO e grazie per la serata. Ciao. Ciao, già, ciao, e anch'io fra un po'. Scendo anch'io, dai, tanto Bucmoso sta piovendo, tu hai balle, avanti Massimiliano. Ok, ciao già, buona serata e buona continuazione, vai Gianfra. Ciao già, andiamo alle prossime, buona serata, riprendi Claudio. Sì, però che rottura, ma ci vediate mica il microfono in mano, che... No, vabbè, io la stavo facendo andare così, giusto per, capito? Per vedere se era tutto a posto e anche di modulazione con la mia timbrica come usciva, tutto qua. Però ho visto che ce l'avevo attaccato, la fa il Napoli, là, ho lasciato questo. No, c'è un bel bene. Soprattutto non sta facendo difetti, niente col microfonino, va bene. Ci vuole lasciare un po' di pazienza. No, di rigogge, non falli, ci siamo capiti noi due. Va bene, esce molto bene così, con quella regolazione lì va benissimo, io ce l'ho, un palmo, ma già va bene, dai. C'è abbastanza spinta questo 140. Avanti Gianfra. Ok, io adesso mi devo salutare perché vado via. Accidenti, ho è caduto, diciamo, un piede in mano, sei fasciato. Guarda tu che roba buona che danno. E adesso sto cercando di recuperare il pezzo, però non mi posso inchinare. Ma roba da matto. Vabbè. Ok ragazzi, dai, me ne vado a cena, buona serata. Alle prossime. Ciao Gianfra, buona cena, buona carica, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. E buona serata. Avanti qua. Eia, ciao Gianfra, grazie alle due chiacchiere. Gentilissimo, come sempre, alle prossimine, cordialità e saluti. Vai Masci. Eia, positivo, va bene. Sì, mandamelo quel tracking, che così poi te la controllo qua. E adesso aspetta, cambio microfono, mi ha rotto le balle, non posso fare niente con questo microfono in mano. Cambia, asemiloghe. Vediamo un po' se c'è Luca Flipper. Luca, ci sei? Aspetta che te lo mando Massimiliano, così me lo controlli. Se è quello, mi ha mandato una cosa in PDF, non penso che sia quello lì. Ma è strano, una cosa in PDF, un numero 3, che... Vabbè, comunque, prova a mandarmelo, se lo vedo, vedo. Quindi te lo mando, vedi tu, mi sembra così anche a me, allora, Vito Lab, ecco qua. Tappa già, patrulla già, Luca Rie, la visione federale c'è in buco. Guarda, non ci vediamo, te l'ho mandato, c'è questo qua, nuova spedizione. Sì, è questo, nuova spedizione, allora, aspetta, allora. Eccolo qua, peso 3 kg, contenuto un pacco. Sì, è questo qua, vediamo con cosa te l'ha mandato, con Crono Express. Con il GLS, allora ho preso Crono Express, lo sai? Ma le poste te l'ha mandato, non te l'ha mandato la... Giovanni, un secondo. No, c'è poco da consegnare, c'è via. Adesso entro alle porte a vedere com'è. C'è Battico, non devo proprio non ci vedere. Controlla, Pietro, sto controllo. Quando ti chiedo andrai da me, me lo dici. Caprasa, aspetta, cerca spedizione. Aspetta un attimino che ci mettiamo sul codice, dammi un secondo. Io sono qua. No, Crano, non va perché è partito stasera, ancora non è registrato nelle loro cimbrane, capito? Te l'ho detto, ma si te, che è partito stasera, se mi ha telefonato, guarda, che poco è partito stasera. Infatti mi ha detto, da domani puoi iniziare a vedere il percorso, ma penso tre giorni e si era a te, così mi ha detto io ti sto dicendo, per quello ti ho chiesto a te. Perché non so dove questo, dove che abita Fermi, mi ha detto, così. Fermo, qua, ti dico esattamente dove, aspetta che prendo il foglietto, mi muovo i piccetti. Allora, lui è di, c'è la ricarica, tutto fermo. Lui abita a Montegranaro, provincia di Fermo, Montegranaro. Già ho capito quel messaggio, se non ti preoccupare, Cla. Vabbè, lasciati lì, tanto, se no, già lo sai, no? Sì, aspetta un secondino, in Valtellina, Valtellina, montagna. Allora, Valtel, no, aspetta, Valtenna. Perché me lo faranno dov'è? No, ma è una curiosità mia, giusto per vedere dov'è me, capito? Chiappaga, Pamonturano, Bimumba. Ecco, io lo so esattamente dov'è. Montegranaro. Ma lo sai dov'è? In poche parole risulta dietro Roma, nell'altra costa, verso, diciamo, cosa di Bussuri. Qua ti mando la foto dove c'è il pallino rosso. Mandamelo, c'è la cartina qua davanti, tutta l'Italia, con tutti i nomi, però non ci sono le province. Cioè, in poche parole lui corseggia, lì di fronte c'è Croazia, Albania e Ballevani, e dall'altra parte della costa. Quindi vediamo giù, in mezzo, provincia di Fermo, Trento, Bordia. Qui c'è Montenegro, gatto, non è Montegranaro, Montenegro lì c'è, Montenegro, non è Montegranaro, io qua c'è scritto Montenegro. Guarda, io ce l'ho la cartina, provincia di Fermo è qua, cioè è a Fermo è qua, No, ma è provincia, ma era, però tu mi hai detto, allora in mezzo c'è Roma, Pescara, quindi l'Aquila, Foggia è troppo sotto, può essere Perugia, Ancona, lì in mezzo. Guarda, ti ho avvicinato il pallino rosso, guarda dov'è, lo vedi? E lì dove ti sto dicendo, dove c'è il pallino rosso? Lo vedi che c'è scritto Fermo? Comunque, centro Italia, vai. Sì, ce l'ho, adesso lo vedo meglio, sì, centro Italia, sì. Che ha pagato, poi allora in tre giorni ce l'è qua, dai. Che ha pagato? Bello Gianni mi ha dato la tua e la Galaxy. Bello. Sì, è mio, per cui già ho visto le maniglie attaccate. Domani mi fornisce le maniglie che le ho fatte nuove, che erano graffiate. Le ho tolte domani nel verniccio e le ho riattacco. Gappa, va bene nera. Ia. Comunque, sto guardando il CMG, è molto bello invece, ma c'è. È bello. È venuto molto bene. Sembra un K. C'ha più il colore però del 140, questo sto usando io adesso, del 430. Il 430 c'ha il colore molto più chiaro. Invece il 140 rimane un po' più scuro. Ma è quello il grigio dove l'hai preso? Ce l'avevo. Ce l'avevo che mi è avanzato quando ho fatto il cancelletto dell'ingresso quest'estate. Capito? Stamattina proprio uscendo a buttare la mondezza, ho detto ma non ho la voce di Ghito Guroi. Era un grigio scuro martellato, diciamo, dai. E fa anche tipo l'antirruggine, c'è anche l'antirruggine in mezzo. Va bene, va bene. Allora, stamattina ero da Cincillati, volevo prendere quel coso del carburio. E invece pure ha detto, poi se non lo vuole, e ho detto volete fare con l'airbag, con l'adesivo. Massimiliano, ma quello te lo devo dare a te, non ho io mano ferma da poter tirare bene come l'hai fatto tu il Conox 5000, capito? Assolutamente. Una volta mi sono messo a fare una cosa del genere con un adesivo, non mi ricordo cosa stavo facendo, mi si è tutto incrociupito. Beh, tu quando facciamo quel lavoro che devi venire qua a fare, lo porti, lo facciamo, se lo prendi la cincilla. Va bene, dai Massimi, che mi metto le scarpe e porto giù a Filippo, cazzo che rottura di balle, sono già le 8. Se ci sei magari ci aggiorniamo dopo, no? Fammi portare giù il cane, sennò rimane tutta la cera addormentata, perché se non vai a smuoverlo, rimane tutta la cera addormentata, poi ce ne invece a tutto barre doccio. Fare andando che agendi, perché lì si addormentano le zampe. Vai tranquillo, vai, già so qua io. Se poi quando ritorni chiama, se ci sono rispondo, se no pazienza, no? Ok. E faccio una scarrellata. Ho visto sul 23 c'erano i vecchietti chiacchierando, ma poi c'è che entra Antonio adesso, perché lui di solito a quest'ora entra in radio, se non è uscito tardi oggi, non lo so, aspetta mai 10 minuti, vai, io già salgo subito, se invece mi pongo a fare in giro, lo porto qua sotto il porticato, nel giardino a fare i bisogni e lo riporto su, vai. Kappa, adesso qua, dai, non ti preoccupare. Ok, grazie a dopo. Vabbè, Massimi, ci sei? Sono rientrato? Io qua, sono qua. E io mi prendo giù un botto, no, fatto vola vola, non so, piovendo, e quindi mi ho approfittato. Com'è il tempo? Piovendo fa? No, adesso no. Ok, va. Stavo messaggiando Daniela, sono giù loro a farà ciabba, senti Massimo, gli attacchi sono gli attenti, magari ha bisogno di te per preparare qualcosa, ma c'è anch'io un paio passaggi, poi inizio a spostarmi in cucina a preparare. Ehi, è una benedetta mio bombolino, mi vabbè. Oi, vabbè, buonasera. Ciao a tu, telefono non lo guardi, no? Stavo mangiando, stavo, aspetta. No, vabbè, è a posto, vai. Cappa, vai, cla. Ma niente, io se non l'ho inteso. Non lo guardi nulla, tu. Va bene, va bene. Ehi, mi stavo mettendo le ciabattine, va. Pigiamone me lo metto dopo. Va bene, tu, sta a posto. Sta a posto, sta a posto. Rimane tutti. Cazzo, te ne farà vero gozzo in bagno, cazzo, c'è tutto, cazzo, te faccia vero freddo, cazzo, della Ianna. E dove venne, salto dal bagno? No, non lo so come è successo, boh. Si fa scendere in tutta che c'è il gas, eh? No, evidentemente ha toccato al centro e ha rifasciato. Vabbè, pazienza. Ha giù buttato un bicchiere di cigarro e vai a poggio. Io non avevo la testa, meglio è. Quello trasparente. Eia, meno pericoloso, no, faccio la tendina dietro, se no si vede tutto lo mangaglio da bue. Oggi un pochino trasparente, però veramente l'ha fatto, cioè perché non avevo tempo di far nulla. L'ha fatto il cognato di Sara, l'ha detto di far vaedo, ma da che cosa è? Ha fatto Edo, perché non avevo tempo di fare niente, e via, e già, se andava sì, vai qua. Va bene, a voi che va bene, non c'è un problema, sì, sto guardando questa cosa che mi hai detto, ma ci vedo, quindi come ho detto di l'antenna devo mettere adesso, non sì. Impianti, come ho detto l'antenna, sono dall'altra parte, tracce dratti, che palle, non mi accontento mai di nulla, ragazzi. Ci vuole poco a spostarla con la base, no? La sposti verso la porta, giri l'armadio al contrario, metti l'altra base che avevi, la potete metterla a lasciare e lasci lo spazio bello comodo a passare dietro la finestra. Si conforma. E adesso vediamo un settimana cosa fare, anche perché noi siamo molto in forma, ho sempre questo mal di schiena, tocca fare incinato, un casino, devo mettere sotto con l'avvitatore per avvitare la piastra e poi appoggiarle l'altra. Vabbè, vediamo un po' cosa posso fare, devo smontarne tutto completamente, questa parte qua dove ci sono 430 e 140, devo smontare tutto completamente, devo fare di nuovo tutto. Passerò, io avrei fatto un'altra cosa ancora più bella, io, poi tu, fai come vuoi. E cosa, ma ci mi dà, tu conosci bene questa stanza? Sì, io avrei spostato quell'armadio che c'è lì nell'angolo, l'avrei spostato e avrei messo tutte e due le basi dalla parte dove c'è l'armadio, tutta lunga così, per tutto il muro. Capito? Senza angoli, senza nulla, tutta dritta. Devo misurare, Massimiliano, forse ci sta tutte e due basi, una appoggiata all'altra, con la piastra e i piedi, ci sta forse giusto, devo misurare, salire domani su, se ci sta faccio così, sì, metto tutto verso questa parte qua dove ci sono gli accessi. Lui vorrà chi ne ha sintonia continua. Sì, posso fare così, però devo prendere le misure perché non mi ricordo da quanti metri è quella là, c'è 1,50 m o 1,20 m con l'aggiunta che ho, non so, questa è da 2,30 m, quindi questa è quella grande. La stanza da quanto? Devo misurare la stanza. Oppure puoi fare un'altra cosa, se non la vuoi lineare così, dove c'hai quell'armadio, metti la L piccolina e poi fai la grande e ti fai l'altro angolo dall'altra parte, capito? In modo che tu entri dalla porta e tutto verso la finestra è tutto libero, hai capito? Questo armadio, cosa invece di sia, è pieno di marrazzi, non è che è nuovo, è un armadio battato, ma è nuovo, capito? L'abbiamo lasciato perché sopra, che è sopra, c'è tutto roba mia. Radio, baracchini, microfoni, butto cavi, cavetti e cavettini. Qua sotto c'è, non so se è rimasta qualche cosettina di mie suoceri, roba che hanno vuole tenere. I cassetti addirittura sono già tutti vuoti, li avevo tutti svuotati, quindi alla fin fine mi pare che se un guattapetti ti hanno buttato la tua armadio. No, l'armadio te lo tieni e lo metti nella parete dove adesso hai la scrivania quella lunga, lo metti in un angolo lì, capito? Però è tutta una cagosa. Infatti secondo me se tu metti la L, diciamo appena entri la porta a destra, la piccolina la metti a destra lì, poi prosegui con la grande, l'armadio ci sarebbe giù nell'angolo sempre nella stessa parte. E c'hai tutta una parte della camera tutta diciamo vuota, davanti alla porta fino alla finestra. Vai tu! Ehi capa! Non so come te sta armadio. Non mi ricordo di averla vista, non lo so perché non c'ho mai, forse ho entrato una volta, non sono mai entrato nella sala radio di Claudio. No, non mi ricordo se mi è venuto così come adesso, forse come era prima, con la base, con la piccola verso la finestra, sì, forse sì, ma tanti anni fa. Non avevo tutta la roba che c'era prima e che c'è adesso, non lo so. Devo vedere, Massimiliano, devo vedere. Ma chi c'è, mamma mia, se sa che devo rimodificare tutto. Mi vale due cose, due maroni, che non viene bene a dirlo, capito? Perché se c'è un po' di spazio, è che io voglio sfruttare quell'altra base lì. Però metterla al posto di questa, cioè togliere questa, piccolina, no? Con la scrivania che sei tu, comprare altri due piedi e mettere quella base all'altra parte, quindi sono uguali, e c'ho più posto perché è più grande. E si conferma, e vabbè poi già ma se ne possono fare modifiche, tanto deve entrare solo due ghive, boh, non è che una volta che le lascio lo spazio per pulire, a lei a voglia, cappa cappa. Va bene, tu bene mi ascolti? Ti ascolto bene già. Segnale com'è? Un pochetto zecco che c'ho, 9,15 sei là. E non da me, io sto usando 10 watt di portante, a voglia. No, io pure, io sto usando poca potenza, sto uscendo un bel basso. Vabbè, va, questo è quella radio che sei tu, il microfono normale. Già va bene comunque. E con il microfono normale quella, quando c'hai tutto inserito, aeromantere MC60, va bene, sì, radio 5 perfetta, bella amplificata, fortissima, no, qua c'è un po' più alto, sei 9,20 con picchi un po' positivi. Ma lo metti che ce l'ho tra lo 0 e l'1, a metà, fate il conto. Va bene, dipende anche. Sto usando pochi watt, ho abbassato parecchio come arrivo lì, in quella zona, bene? Sì, a tuo radio 5, Santiago 5, a picchi di 7, a voglia, va benissimo. Ci ho detto di maiale, a tu. Vai signore, io vi lascio che sono giù a preparare qualcosa, e vedere un po' cosa c'è da sgranocchiare. Domani la sveglia sono a prezzo e me ne va a lavorare, è la ora. Non so se ci siete più tardi, se no vi auguro una buona serata e ci sentiamo alle prossime. Ok? Ciao Claudio, ciao Antonio e i vari ascoltori. Ciao ciao. No, ma ci mica, mi allontano anch'io, dai, devo preparare ciò che ho da fare. Devo allontanare anch'io, dai. Tanto come al solito, se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Ciao Massimi, saluti a casa, dai. Mi allontano anche io, adesso ho dovuto reagire, non vedrete. Ci sentiamo dopo. Ciao, dai, ci sentiamo. Sì, Massimiliano, sono trattendo i pochissimi watt, ma no. Non ho salito niente, sto usando, cos'hanno in gioco. Ma che in tutto stavo usando 7 watt, non di più. Sono salite 1,5. Quanto? 1,5. Pure io però c'è un problema, vabbè, basta abbasso un po' di potenza e va bene, insomma. Cappa, pure a me mi si salgono un po', ma non è esagerato, basta andare un pochetto più piano e non vedo problemi. Yeah.